son già i suonatori. Le trombe sentite, i pifferi unite, fra canti, fra balli, nei vostri vassalli. Corriamo, vogliamo le nozze a compiere. Corriamo, vogliamo le nozze a compiere. Via, piano, ma in fretta, la turba m'aspetta. Via, piano, ma in fretta, un dubbio toglietemi prima di partire, prima di partire. Signor Figaro, questo foglio chi vergò? Non conosco, non conosco. Non conosci, no. Non conosci, no. Non conosci, no. Non conosci, no, no, no. E non sai del damerino che stasera nel giardino. Già capisci, non lo so. Cerchi in mare difesa e scusa. Il tuo ceffo già t'accusa. Vado perché vuoi mentir. Mente il ceffio già non mente. Il Thank you.